No Paraná, no estado onde eu vivo, nós temos graves problemas com plantio extensivo aí de soja, Nel Paraná, de la regione dalla eucalipto, quale cana di provengo, zucchero. abbiamo Per grandi problemi esempio, con la le soja, coltivazioni vari estensive di impatti soia e su eucalipto e canna contaminazione da di zucchero. solo, Soprattutto di la soia acqua, provoca inquinamento di dei suoli e delle diminuzione della acque, diminuzione della biodiversità, biodiversità e aumento della produzione diminuzione destinata della biodiversità, all'esportazione, a discapito della produzione popolazione di locale. prodotti che vão ser exportados. As empresas transnacionais impõem isso com muita violência no Brasil. Le multinazionali impongono tutto Esempio di un questo con caso molta violenza. Posso onde parlarle di un caso l'impresa che conosco vem produzindo personalmente. Qualche soja tempo fa una transgenica multinazionale no aveva piantato entorno soia de OGM nei dintorni del Parco Nazionale di Iguaçu, dove ci sono le famose Isso é cascate, proibido no una cosa Brasil, proibita plantar in Brasile, plantios nel em raggio di torno. 5 chilometri da una riserva Então, naturale. trabalhadores e trabalhadoras da via Allora, un campesina gruppo di lavoratori e ocuparam essa lavoratrici della via fazenda, Campesina hanno occupato distruindo il essa campo e plantação distrutto la piantagione. A de quel punto eugenicos. l'azienda ha soldato E essa 40 empresa, então, pistoleri che hanno contratou sgombrato 40 il campo, sparando pistoleiros sulle que famiglie che entraram stavano atirando em occupando. Tra di loro todas as c'erano molti pessoas, bambini, ci sono muito, stati molti tinha várias feriti ed è morto un nostro crianças, compagno che si mulheres. chiamava Muitas Sheno. pessoas ficaram feridas e nesse episódio também morreu um grande companheiro nosso, chamado Keno. Nas nossas áreas a gente procura ter Nelle uma terre che ci agricoltura sono affidate, diversa. cerchiamo invece O di lavorare principal in maniera objetivo da diversa. produção é Coltiviamo buscar seguendo o i principi autossistema de dell'agroecologia con l'obiettivo forma principale saudável, limpa, produzir dell'autoconsumo, coltivando di tutto un po'. sustentável, ecologia, produzir de tudo um pouco. Acreditamos que será possível dialogar com esse governo, Crediamo che sarà mas sempre possibile mantendo a dialogare con nossa il nuovo governo di autonomia e Dilma uma Rousseff, mobilização ma sempre popular mantenendo la constante, nostra autonomia e una porque a mobilitazione gente popolare tem costante. Sappiamo consciência bene dos quali grandes sono le desafios grandi che sfide che la abbiamo nuova pela frente, presidentessa deve affrontare, como, anche nei riguardi exemplo, dei o sem-terra. assentamento de 100.000 Innanzitutto dare la famiglias terra alle 6.000 famiglie che sono in extinguidas attesa em da quatro anni. anos In secondo luogo na reforma ridurre agrária. l'estensione massima di terra che Outros può grandes essere desafios que posseduta da un abbiamo solo proprietario. é que a C'è una Dilma grande tem pela campagna in frente Brasile su questo tema. é Infine, rever fronteggiare le o grandi tamanho da multinazionali che propriedade, hanno aperto un ciclo di há uma grande ricolonizzazione, non campanha solo no in Brasile, Brasil pela ma in tutta redução l'America Latina e altri do posti del limite, mondo. realizando esse novo ciclo de recolonização, no Brasil, na América Latina e outros lugares do mundo. O capitalismo ele transforma tudo em mercadoria, Il todos capitalismo os trasforma bens tutto in comuns como merce, anche água, i beni terra, comuni, come la terra, l'acqua, la biodiversidade, as biodiversità, i sementes. semi. E não Non existe uma esiste più una sociedade, società, ma mas sim solo un um mercato dove mercado si onde vende e se si compra vende tutto. tudo. Poi, quando Quando arrivano a le crisi, crise, la soluzione è sempre la guerra a per solução rivitalizzare para l'economia ed imporre la paura. crises Anche são as l'agricoltura è guerras, diventata un business e questo para a porta con sé economia, grandi impatti para negativi. impor o In Brasile medo. l'agricoltura è basata su grandi estensioni L'agricultura di foi terra, diferente. L'agricultura monocoltivazioni, uso também é um massiccio di negócio. prodotti tossici e E minacce essa verso i agricultura piccoli mais industrializada contadini, trouxe che uma série spesso di sono impactos. costretti a lasciare le O campagne per Brasil andare ad é ingrossare um il modelo sottoproletariato delle baseado città. em grandes. Com isso, ocasionando que muitos agricultores tiveram que sair do campo para ir para a cidade. Também podemos citar uma alta E poi tutto questo destruição comporta do una meio grande distruzione ambiente. Hoje em dia, o dell'ambiente. Brasil Da é um anni dos il Brasile maiores detiene il primato consumidores mondiale per agrotóxico, quanto maior riguarda distruttore il di florestas. diboscamento. C'è una grande Uma grande pressione delle pressão, multinazionali, in do particolare sulla foresta agronegócio amazzonica. para a Questo fa sì utilização che il das terras Brasile da sia Amazônia, attualmente al quarto isso posto faz nella com que o Brasil classifica fique degli em quarto emissori di lugar anidride carbonica che causa no il ranking riscaldamento aí globale. das emissões de CO2, E tudo isso com a La scusa desculpa per fare tutto do questo è desenvolvimento, quella di risolvere progresso, il de problema baixa della fome, fame, ma noi mas a gente sappiamo sabe bene che il cibo que per tutti già ci a sarebbe nel fome ainda é mondo um ed è grande solo problema, un problema di não um problema distribuzione. de produção, mas sim um problema de distribuição.